Dialog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Questa mattina facevo una riflessione che mi sta seguendo da un giorno o due circa. Acuita riflessione dai titoli dei giornali su quello che sta accadendo a Atene, una città in fiamme, popolazione per strada, disperata, alla fame, si incendiano le banche, ci sono scontri con la polizia. E pensare che questa è una situazione che deriva da una generalizzata crisi economica che probabilmente tutti speriamo che questo non accada, ma che in qualche maniera potrebbe essere uno scenario a cui il nostro paese, non voglio dire si stia avviando, ma siamo assimilabili per alcuni punti a quello che sta accadendo in Grecia. In Grecia naturalmente esasperato, un'altra situazione, noi non siamo come la Grecia, via dicendo, però non si può fare a meno di pensare che il clima generale che in questi giorni stiamo vedendo semplicemente come spettatori in televisione è qualcosa che anche emotivamente, come riflessione, non può essere soltanto uno spettacolo televisivo, deve essere qualcosa che comunque ci faccia riflettere. Questo non vuole portare a fare riflessioni di un'austerità di comportamento, austerità totale, di una caduta totale di ogni aspirazione alla leggerezza, no, assolutamente. Però mi sembra un po' un contrasto il fatto che, come se nulla fosse mai accaduto negli ultimi mesi, nel nostro paese ci si appresti gioiosamente, spensieratamente, futilmente a celebrare una festa che in realtà non è una festa, non ha nulla che sia assimilabile al concetto di festa, al concetto che è l'uscita dal tempo quotidiano, l'entrata in un tempo favoloso in cui sintomatici, misteriosi incroci, qualcosa accade, qualcosa deve uscire dalla norma. Sto parlando chiaramente di quello che accadrà domani. Domani un numero ampio di persone che classifichiamo in maniera del tutto artificiale, arbitraria, improbabile, come innamorati, faranno qualcosa per celebrare, certificare, confermare, rassicurare il proprio amore. Sì, perché domani sarà il giorno di San Valentino. Il giorno di San Valentino è la festa degli innamorati. Ora, esistono un'infinità di feste che in realtà non hanno nulla fantastico irrompere del tempo della festa nel tempo del grigiore quotidiano, che sono feste artificiali, feste che derivano da operazioni di marketing, feste cosiddette commerciali. Nulla contro le feste commerciali, belle le feste commerciali perché in fondo tengono lubrificato l'ingranaggio dell'economia. Mi può star bene la festa della mamma, mi può star bene la festa del papà, mi può anche star bene la festa dei nonni, degli zii, dei cognati. Perché? Perché tutto sommato celebrano nella loro liturgia oggettive situazioni di rapporti tra esseri umani. Il padre oggettivamente è un padre, la madre oggettivamente è una madre, la nonna e il nonno sono oggettivamente dei nonni, facciamo la festa a queste persone. È innegabile che esistano. Ma gli innamorati? È una categoria dell'umanità l'essere innamorato, definibile, circoscrivibile, soprattutto cristallizzata in una data. Io sono innamorato adesso, ma fra 5 minuti posso essere disinnamorato, posso rinnamorarmi dopo 10 minuti. Non c'è condizione più transeunte, più impossibilitata ad essere fissata in qualcosa di rigoroso e rigido come rituale di una festa che l'innamoramento. Eppure domani si festeggeranno gli innamorati. Ci saranno persone che andranno in ristoranti, spenderanno pacchi di soldi, ma buon per loro, mi sta bene. Si scambieranno cuoricini, candeline, gioiellini, cioccolatini, perché domani è la festa degli innamorati. Beh, io vorrei cominciare a lanciare, ma non per gusto di anticonformismo, non per il solito burbero senso da dickensiano personaggio che odia le feste, odia la felicità. Amo la felicità, amo vedere la gente sorridente, ma trovo totalmente idiota festeggiare gli innamorati. Gli innamorati non vogliono feste, gli innamorati non vogliono celebrazioni, gli innamorati non vogliono rituali collettivi che certifichi il loro innamoramento. Pensate a tristezza vedere quei tavolini tutti uguali, tutti con la stessa candelina, con lo stesso cuoricino, con lo stesso piatto pieno di cose rosse, dovrebbero sigillare il loro amore, e con la stessa bottiglia di vino, con le stesse ostriche, con lo stesso menù piccante e stimolante, e con il stesso servizio annesso di massaggi rilassanti e di coccole benefiche. Sì, perché ho visto, c'è un famoso luogo di incontri qui a Roma, che è anche un grande albergo, che promette festa con cena per fidanzati, e poi c'è anche il seguito di coccole, cioè avere un posto, c'è gente, ti unge, ti massaggia, ti smaneggia, non so quale sia il motivo. Beh, pensate a farlo questo massificato tutti assieme in fila. Beh, oggi di questo vorrei ragionare. Qual è il senso ancora di celebrare un San Valentino come festa degli innamorati? Esiste ancora la possibilità, ma è mai esistita la possibilità di festeggiare l'innamoramento? L'innamoramento non è una festa che nel momento stesso in cui la si celebra già è ormai finita, scemata, esaurita? Non so se tutti la pensano così. 800240024. Sicuramente non la pensa così il governatore della Lombardia. Qui siamo al 39esimo piano di Palazzo Lombardia, la nuova sede della regione. Qui sotto vedete la città di Milano. È sera, siamo nel cielo sopra Milano e le luci della città sono uno spettacolo straordinario. Bene, il 14 febbraio, martedì, San Valentino, abbiamo deciso un'apertura straordinaria di questo 39esimo piano di Palazzo Lombardia, destinata a tutti gli innamorati che vorranno venire a passare un momento, a fare una visita, a vedere dall'alto Milano e la Lombardia, a dirsi di sì o a ridirsi di sì. Vi aspettiamo. Mi viene da pensare che c'è chi si organizza oggi con le taniche di benzina per andare a incendiare le banche, e c'è chi si organizza per andare sugli ascensori a vedere Milano dall'alto tenendosi la mano nel palazzo istituzionale aperto per una notte per la gioia degli innamorati. Lecito farlo, lecito pensarlo, totalmente rispettabile come punto di vista, ma vorrei capire se realmente nella percezione generale di chi mi ascolta questa festa ha un senso. 800240024, qual è secondo voi il senso del festeggiamento di San Valentino? Lo farete? Seguirete la tradizione? O perlomeno è semplicemente qualcosa che invade giustamente, proficuamente gli spazi pubblicitari di giornali, telegiornali, giornali radio e via dicendo, siamo tutti contenti, ma in realtà profondamente nessuno pensa che il suo amore abbia bisogno di un giorno di festa collettiva. Oggi prima ricetta di San Valentino. Come ricetta di San Valentino, appunto, ho scelto la torta a sette veli. Sapete perché l'ho scelta? Perché se deciderete di farla, dovrete veramente amare molto molto il vostro lui o la vostra lei. Ciao a tutti e bentornati nella mia cucina. San Valentino ormai è alle porte, quindi oggi ho deciso di mostrarvi come realizzare una torta a forma di cuore. Ciao ragazzi, ho un'altra ricetta per San Valentino che si sono trasformate in due ricette. Sarebbero questi cestini di pasta frolla con crema e fragole ed ananas. Qualcuno si prepara già la grande magnata di San Valentino, perché bisogna mangiare, andiamo a mangiare assieme, mediamente. Ho visto che le cenette di San Valentino possono costare anche 300, 350, 500 euro, va benissimo, ma mica voglio fare il micragnoso, il pidocchioso, ma figuriamoci, divertitevi, l'importante è che ci sia la consapevolezza e la certezza che tutto ciò sia veramente la festa dell'innamoramento, come ad esempio accade per l'ascoltatrice Rosita. Buongiorno Rosita. Buongiorno a lei. Niente, ci tenevo a sottolineare che non ho bisogno di 350 euro per una cenetta, non ho bisogno del diamante presentato, anche perché me l'ha già offerto 30 anni fa e sono ben felice di averlo accettato. Ma perché sono pro la festa di San Valentino? Perché in questo mondo in cui tante volte ti senti dentro questo circolo vizioso di Ah, cioè, mattina fai questo, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro, poi c'è l'altro. Perché vizioso? Non c'è nulla di vizioso. Magari fosse vizioso, è un circolo banalmente necessario. Ho un'altra idea di ciò che sia vizioso, dà molta più soddisfazione. È vero. Se lei chiama vizioso il quotidiano, pensi un po' quali saranno i suoi vizi. No, è vero, ho adoperato un aggettivo discutibile, ma volevo dire, San Valentino mi fa fermare un attimo e dire no, oggi trovo tempo per mettermi più carina, mettermi più così, ritagliare oggi stasera, domani sera, quando torna o quando una cenetta, del tempo per noi due. Ma pensi che tristezza questo avviene perché c'è una necessità liturgica, perché tutti lo fanno, perché lo dice la televisione? No, non pensi sono che attizzamento? Non lo so, io la vedo così. Io è antitetico, alla spinta irrefrenabile che dovrebbe dare l'amore di farlo nei momenti più impropri per questa cosa. Qual è lo fa? Perché è come quelle persone che vanno a messa tanto per andarci, è la stessa cosa. No, non è vero. Ma io la vedo così, è il mio punto di vista, rispetto al suo. Giustamente, ma la trasmissione è bella proprio perché c'è il suo punto di vista e c'è il mio punto di vista. Vabbè, lei è contenta, lei dice una volta l'anno almeno c'ho l'occasione per farmi carina, per far finta che siamo ancora innamorati, qualcosa del genere. Qualcosa del genere, sì, mi fermo e dico sì, oggi in modo particolare. Va bene, allora diciamo San Valentino è una grande rappresentazione, una grande pantomima dell'amore scomparso, l'amore finito, dell'amore esaurito, e una volta l'anno rifacciamo questa celebrazione. È come in quelle proloco che fanno, che ne so, il carnevale cinquecentesco, la corsa medievale, non so, bellissimi, vestono tutti da dame, da paggi e da guerrieri, fa ridere perché hanno le facce da persone anni 2012 e vanno in piazza e fanno queste sfilate. Un grande corteo storico dell'amore. I compiti che veniamo per San Valentino da donna sono questi qui bianchi con i pois neri e le fiorelline rossi per la donna, mentre per gli uomini abbiamo dei boxer con delle bocche disegnate su oppure delle rose. In vetrina abbiamo quel kit che ha un kit a forma di cuore e dentro può trovare un perizoma con un cuore davanti sempre a quadretti bianco e rosa, e poi c'è una collanina con un cuore davanti, e copri capezzoli. Ah no, c'è anche la mascherina per dormire. Trovo fantastico che una volta l'anno ci sia lo sdoganamento delle porcellerie fra innamorati. Lei si mette il copricapezzolo, lui si mette il boxer con la bocca disegnata davanti, e poi cosa fanno? Non lo so, fanno un corteo mascherato, corrono per casa, fanno un teatrino per i figli, non so bene. Vedete quanto poi la commercializzazione dell'istinto, del vizio, come diceva quella signora, il vizio in sé è qualcosa di riprovevole e condannabile, ma proprio per questo dà gusto coltivare un vizio. Perché le persone fumano, perché le persone bevono, perché le persone si mettono le dita nel naso? Perché sono vizi che hanno le loro piacevolezze, fanno anche male, sono negativi, deleteri, come la pubblicità che c'è in televisione del giocatore di poker tutto sudato davanti al tavolo che sta male, l'altro tranquillo dice beh datti una calmata, pigli la calma. Ecco, la stessa maniera la festa di San Valentino in realtà, visto che siamo troppo calmi, vorrebbe una volta l'anno tranquillizzarci del fatto che ancora possiamo permetterci certe cose. Ma il mio è un punto di vista detestabile, un punto di vista probabilmente criticabile. Esprimetemi il vostro. 800 24 0024. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, la mia idea è questa, cioè noi come paese abbiamo bisogno di andare fino a fondo. Il suo paragone con la Grecia è giustissimo, ma noi italiani queste cose non le capiamo. Noi dobbiamo colare a picco per capire dove siamo arrivati. Per sì, cui San Valentino. Con San Valentino cosa c'entra? Ecco, per capire. C'entra perché ci sarà comunque tutta una serie di persone che, pur non arrivando a fine mese, eccetera, eccetera, faranno comunque San Valentino, perché gli italiani sono un popolo bue. Vabbè, adesso sono tante cose, non entriamo in questi luoghi comuni, sono tante cose, non si può generalizzare generalmente, è facile. E in più ci sarà tutta una serie di persone che comunque questa crisi non la sentono, che hanno alla fine diritto di di fare San Valentino come sempre l'hanno fatto, per cui andranno al ristorante, si scambieranno dei regali, perché poi se è vero che c'è una fascia dell'Italia che sta male, c'è anche una fascia dell'Italia che sta molto bene, questa crisi non la sta sentendo. Sì, ma non voglio fare l'invidioso di chi sta bene e dalla parte di chi sta male, però penso, tra le tante maniere di chi sta bene che ha modo di vivere ancora meglio, mi sembra la giustificazione del fatto che si celebri l'amore, si festeggi l'amore, sia qualcosa di antitetico, di necrofilo nei confronti del concetto di innamoramento, che è un concetto che è bello proprio perché è improvviso, perché è indecifrabile, è incontrollabile, non può accendersi l'amore un giorno all'anno, una sera all'anno, in un momento all'anno, è un'altra cosa, è una rappresentazione. Sono d'accordo, ma del resto San Valentino non è mai stata la festa degli innamorati. No, assolutamente. Nel senso vero, come Natale non è sì, il giorno in cui nasce Gesù bambino e tutto quello, Pasqua, Carnevale, per i cristiani, cioè, ecco. Però è un altro discorso quello, qua parliamo di qualcosa di ordine ben diverso, la fede è qualcosa di costante, qualcosa che si alimenta, qualcosa in cui si crede, qualcosa che ispira comportamenti e atteggiamenti. L'innamoramento non lo controlliamo, noi possiamo controllare il nostro comportamento. Io voglio essere buono, caritatevole, esprimermi in maniera altruistica, questo fa parte, certo, comunque di un... ma non posso dire io mi voglio innamorare, sì, posso dire mi piacerebbe essere innamorato o mi piacerebbe non essere innamorato. Quante volte l'amore ci coglie e noi scappiamo via dicendo mamma mia sono innamorato, volevo togliermi dalle scatole questa idea, eppure non ci riusciamo. Come facciamo, certo, a festeggiare qualcosa che noi non controlliamo? Ma in realtà è insito in tutte quelle situazioni in cui noi cerchiamo di portare un certo momento a una sua, chiamiamola, identificazione. Per cui perfetto, ogni volta che noi sono convinto, guarda, lei ha ragione, una data, un giorno, in quello stesso momento noi stiamo, perfetto, riducendo a zero quella cosa. Bravo. Lo sappiamo, è così, c'è San Valentino, c'è tutto quello che abbiamo detto prima. Perfetto, allora ecco. San Valentino, diciamo che è il giorno in cui si festeggia la tomba, la morte, il ricordo, è come ricordare un caro estinto se il giorno di San Valentino si ricorda l'innamoramento. Ma questo ce lo può confermare un personaggio che la sa lunga su queste vicende. Gianetto Regassani, buongiorno. Buongiorno, dottor Nicoletti. L'avvocato Gassani è un nostro ospite ormai fisso, visto che ci ispirerà e ci aiuterà probabilmente in vicende anche personali, se andiamo avanti così, che è il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti. Ricordo che ha scritto il libro I Perplessi Sposi, che è un'indagine sul mondo dei matrimoni che finiscono in tribunale, edizioni Aliberti. Voi avete, Avvocati Matrimonialisti, espresso un dato agghiacciante, agghiacciante per gli innamorati dell'amore di San Valentino. Pare che il giorno di San Valentino sia il giorno in cui la gente si faccia più corna e l'adulterio sbocci in maniera fantomatica. Ma diciamo che capita molto spesso che il giorno di San Valentino significhi il doppio regalo, il regalo per la partner ufficiale e il regalo per l'amante, o per il partner ufficiale e l'amante al maschile, quindi è addirittura non una festa ma una doppia festa, chiamiamola così, nel quadro appunto di un consumismo, come si diceva prima nel dibattito di prima. Noi italiani siamo assolutamente ligi a rispettare delle convenzioni più che delle vere e proprie feste. Basti pensare che negli ultimi anni addirittura la festa di Halloween, che non ci appartiene per niente, è diventata una nuova festa per spendere altri soldi, per fare nuovi banchetti, comprare costumi. Sì, però almeno è una bella mascherata, non c'ha la pretesa di celebrare qualcosa che non esiste come l'amore, si fa per far divertire i ragazzini. Ma dalla vostra casistica, senza naturalmente generalizzare troppo, certo, vi accade spesso che il giorno di San Valentino sia la cartina al tornasole di qualcosa che non funziona, in cui c'è un impacciato destreggiarsi fra la necessità di fare la festa con entrambe le persone e che è ancora più gravosa come pantomima di festa? Assolutamente sì, capita spessissimo addirittura che alcuni investigatori colgono con le mani nella marmellata il fedifago. O addirittura capita lo sfregio, cioè il deposito del ricorso per separazione il giorno di San Valentino, capita molto spesso, quasi così che se fosse un segnale, una festa per gli innamorati, per me invece l'inizio di una guerra. Quindi ci sono anche dei segnali molto precisi che spesso, molte volte anche gli stessi avvocati avallano, secondo me sbagliando. Ti deposito un ricorso per divorzio, per separazione il 14 febbraio. Domani per sfregio, dice, il giorno degli innamorati ti faccio vedere che io ti piazzo questo palo sotto l'osso sacro. Sì, ecco, perché come può essere una festa, può essere l'inizio di una guerra, e quindi capita questo, ovviamente per carità, per chi crede a questa festa, per chi ama veramente una persona, ben venga a San Valentino, ma credo che San Valentino dovrebbe essere tutti i giorni, un po' come la festa della donna che trovo assolutamente odiosa, quasi a sottolineare che gli altri giorni dell'anno non siano la festa della donna. Ovviamente c'è un mercato, c'è un business, ci sono scienziati del consumismo dietro San Valentino, perché non ci sono solo le cene, ma ci sono i regali costosissimi, i diamanti, la lingerie solo per San Valentino. Sì, abbiamo già fatto una rassegna, esatto, di copricapezzoli per San Valentino e mutande con la bocca. Avvocato, ci fermiamo un istante per dare la linea alle informazioni della borsa, poi riprendiamo con questa fantastica vicenda del San Valentino, giorno di grande investimento, perché il diamante, si sa, dura una vita e in fondo è anche una buona maniera per investire i propri soldi. Melog, la realtà condivisa. È dal 2000 che sono sola e dico viva San Valentino, perché di notte sogno di avere un compagno, sogno di fare l'amore. Perché togliere la tradizione del San Valentino? La passione che uno sente dentro non influisce su quello che viene trasmesso dalla televisione o dalle vetrine. .800240024, stiamo parlando di una nostra, diciamo, class action che vorremmo in qualche maniera eliminare San Valentino, sostituirlo, cambiarlo, mettere al posto suo qualche altro santo. Ma perché? Perché può essere sintomatico dell'amore quello che sto per leggervi. Vi leggerò quello che è l'invito a passare un fantastico San Valentino, uscito uno dei tanti siti romani a caso, di un albergo che promette questo. Per San Valentino, per festeggiare l'amore. Una camera deluxe Imperial Room per due persone con vista panoramica sulla città eterna e colazione Imperial servita in camera in qualsiasi momento della giornata. Un tenore che canta aree romantiche per accogliere ospiti all'arrivo delle camere. Un dono in cristallo della famosa Maison Tiffany che ricorderà agli ospiti il loro romantico soggiorno. Cioè una cosettina di vetro, una chiave. Un dono in cristallo, ho detto, trasferimento a bordo di una Rolls Royce Silver Spur d'epoca. Squisite praline da meditazione, delizie assolute per il palato. Qui calo un velo pietoso, non so cosa siano le praline da meditazione. Rose Apollo a stelo lungo, a ornamento della camera. Champagne all'arrivo in camera. Due rilassanti massaggi in un magnifico ambiente della Grand Spa Club. Il pacchetto di San Valentino è disponibile a partire da €980 per la notte del 14 febbraio. È possibile prolungare la permanenza tra il 15 e il 21 a costo minimo di €450 a notte. Guardate, questo era l'anno 2009. Oggi che siamo nel 2012, penso che i prezzi saranno addirittura lievitati. Selene, buongiorno. Ciao Gianluca. Poco fa avete anticipato un po' quello che volevo dire io, cioè che secondo me io sono contro la festa di San Valentino. Ma si perde le praline da meditazione e le rose Apollo a stelo lungo. Non so come fare. Guarda, secondo me è una festa commerciale e soprattutto la festa degli ipocriti. Brava. Perché io conosco tanti, io parlo di uomini, poi uomini e donne. Parli di quello che conosce. Che sono sposati, tradiscono regolarmente la moglie, che però San Valentino diventano matti per cercare un regalo, per cercare il ristorantino giusto. Perché si sentono in colpa. Magari al pomeriggio, prima di andare a cena con la moglie, vanno a Lugano a farsi il regalo. Prima vanno a dare una bottarella all'amante, poi vanno dalla moglie. No, all'amante, non so se conosci Lugano. Vabbè. No, sì, Lugano, so cosa sia, ma non so cosa si faccia a Lugano. Selene, colma la mia lacuna, non lo so, giuro. Lugano è famosissima per i night club. Ci sono gli anarchici, il lago. Sono aperti anche di giorno. Vanno a consumare d'azioni, esatto, mercenarie. Esatto. Intime d'azioni mercenarie. Ma perché, scusa, il motivo? Per sfregio verso la moglie? Per farti l'esempio dell'ipocrisia, cioè mi è capitato anche di sentire questo, che magari il pomeriggio è andato a farsi un giretto a Lugano e poi la sera però è tutto bello pronto per andare a cena con la moglie, il regalino perfetto, Tanto poi la moglie, loro immaginano, dopo che l'è riempita di champagne, di rose a stelo lungo Apollo, di praline a metà, si mette a dormire, quindi non ha la prova tangibile. Esatto, l'importante è che gli arrivi il regalino giusto, magari l'annellino, il braccialettino. E allora, tutto questo, io non faccio il moralista, fa parte della lecita gestione di un rapporto fra due persone, buon per loro. Il fatto di istituzionalizzarle una festa mi fa sorridere. Poi ognuno fa quello che vuole, alla moglie gli starà bene probabilmente che il marito la riempa di rose a stelo lungo Apollo e riempa qualcun altro di altre cose. Non è quello il problema. Il problema è farne una festa, questo mi sembra abbastanza ridicolo. Esatto, ma secondo me quando sei innamorato, quando c'è la passione, sì, te ne fotti del 14 febbraio. Quando c'è la passione la consumi anche dentro i cassonetti dell'immondizia. Esatto, non è un problema, esatto, figuriamoci. Sì, sì, e lo sa bene, lo stracciamutande avviene ovunque, non c'è bisogno delle praline di meditazione. Grazie Selene. Chiudiamo con l'avvocato Gianettore Gassani, che abbiamo sentito prima, abbiamo lasciato sospeso. Ricordo che è il presidente nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti. Nelle sue casistiche, avvocato, rientra mai negli atti di un procedimento per scioglimento del matrimonio, richiesta di divorzio o richiesta di alimenti, queste fattispecie, cioè la crudeltà mentale di aver portato la controparte a cena dopo aver consumato un illecito rapporto? Ma come no, capita tantissime volte. Quindi ha ragione Selene, la nostra ascoltatrice. Ma se basti pensare che praticamente una coppia in una coppia su due si nasconde un traditore, insomma, i dati statistici ormai sono questi. E francamente le persone che appartengono alle fasce economiche più deboli, che sentono questa trasmissione, secondo me si arrabbieranno molto, perché le mogli degli operai che faranno? Potranno mai avere la gioia di diamanti, di alberghi ex lusso, di regali costosissimi? In un momento di grande crisi come la nostra, c'è una disoccupazione spaventosa, si parla ancora di spendere migliaia di euro per una festa. E anche qui c'è una sorta di classismo della festa, c'è chi si può accontentare di una pizza e una birra, magari si ama la follia, e chi crede che attraverso questo consumismo può dimostrare un proprio amore. Insomma, questa, l'ipocrisia di cui lei parlava, mi trovo assolutamente d'accordo. Quindi abbiamo detto San Valentino è la festa degli ipocriti, poi mettetela come volete. Grazie avvocato Gassani. Grazie, sentiamo Matteo. Matteo. Buongiorno, salve. Dunque, quello che io penso non è tanto il piano della mercificazione. No, io non mi scandalizzo per la mercificazione. No, neanch'io, assolutamente. Però io credo che la festa di San Valentino vada festeggiata per una cosa diversa, perché rappresenta invece la festa dell'unione, che è una cosa che merita di essere invece festeggiata. Diversamente dal piano molto... Ma l'unione mica detto sia l'innamoramento, È un atto d'amore, indubbiamente. Esattamente, è un atto di amore. È per questo che c'è confusione nel mondo di oggi, cos'è amore, innamoramento, eccetera. Cosa che magari invece i classici avevano capito molto meglio. Lei guardi, dunque, San Valentino, la storia dice che era una bella festa, fino a che arrivò Papa Gelasio nel 496, disse: da oggi si chiama San Valentino. Prima era la festa per il dio Luperco. Accadeva così: mettevano in un'urna tutti i nomi dei ragazzi e delle ragazze di un posto. Parlo nel mondo classico, prima appunto della modificazione in festa cristiana. Estraevano i nomi e accoppiavano i bigliettini, e quelli che venivano accoppiati c'erano un anno a disposizione per far ciò che volevano, una festa di fecondità, quindi libera e intima d'azione per tutti. Poi naturalmente fu cristianizzata e fu data alla festa San Valentino, che era un martire, un vescovo che permetteva le unioni fra cristiani e pagani, quindi di idee molto più aperte dell'ex ministro Giovanardi, e quindi da questo punto di vista diventò la festa dell'innamoramento, dei sentimenti, e tutto qua va bene. Poi a un certo punto a Perugia fabbricavano i baci Perugina, che compiono 90 anni quest'anno, hanno detto: dobbiamo fare una festa per pubblicizzare il cioccolatino dell'amore, e hanno detto a Terni, che era vicino a Perugia, c'era San Valentino, facciamo la festa di San Valentino. È diventata via via la festa dei cioccolatini, dei regalini, è cresciuta al punto tale che da noi è una kermesse stratosferica. Ma tutto questo che ha a che fare con l'innamoramento? Francesca. Sì, secondo me qualcosa dell'innamoramento c'è, però credo che sia essenzialmente un bisogno di emozioni, di relazione. In questo momento in cui non c'è tempo, ma c'è solo un bisogno di altro tipo, di lavoro, di cercare negli oggetti le cose che servono. Le emozioni devono avere un significato, i ragazzi cercano in questo delle emozioni. Ma come si fa a emozionare nel veglione? Guardi, io davanti una pagina aperta, San Valentino Roma, perché vivo a Roma, ma penso ci sono almeno decine e decine di ristoranti, tutti con le rose, con i cuoricini, con le luci, che questa sera, domani sera, apparecchieranno la tavola a centinaia di fidanzatini che si guarderanno negli occhi con altri fidanzatini intorno, si faranno le foto con l'iPhone, manderanno le foto su Facebook, taggeranno le loro foto, scriveranno delle righe su Twitter dicendo oggi siamo insieme, via San Valentino, ci amiamo, cuoricini, via dicendo. Ma dov'è l'emozione in questo? L'emozione è qualcosa che non fai sempre, in qualcosa che fai in quella data. Ma scusa, se mi emoziona mi direbbe... non sono innamorati veri. Sì, io l'emozione credo per me sarebbe... L'innamoramento è tutti i giorni, donna essere tutti i giorni, veri essere tutti i giorni, non il giorno di San Valentino. Ok, Francesca, ma può essere programmata l'emozione? Io considero emozione amorosa il fatto che lei mi fosse vicina, mi scoprissi innamorato di lei, un giorno lei mi aggredisse nell'ascensore, quello è emozionante. Ma sapere che io e lei ci prendiamo un appuntamento, andiamo a fare la festa San Valentino, le rose a gambo lungo, le praline dell'amore, via dicendo, cosa c'è di emozionante? Guardi, io non ci credo, per me, voglio dire, personalmente, credo che emozionarsi può succedere così istintivamente in un momento, ma non preparato. Allora mi dà ragione. Però sì, io non credo in San Valentino, mi fa piacere se arriva una rosa, ma una rosa è un segno, non è un brillante, non è un pensiero, c'è la giornata, può arrivare una rosa come non arrivare, però magari la rosa me l'aspetto, non di certo il brillante, perché quello non ha un senso per San Valentino, ecco. Grazie, questo... ci fermiamo un attimo da dare la linea alle informazioni del traffico, poi riprendiamo, 800 24 00 24. Quanto siete innamorati e quanto domani celebrerete il vostro innamoramento? Melog, la realtà condivisa. Riguardo San Valentino, tempo fa uscivo con un ragazzo e dopo aver ripensato come dichiarargli il mio amore, una sera mentre eravamo accoccolati in macchina gli dico ti amo e lui mi risponde sì sì andiamo che si è fatto tardi. Questa è una ragazza delusa dall'amore che ha voluto lasciarci in segreteria questo messaggio, ma già chiedere ti amo, trovo che sia già una discesa vorticosa verso la fine di un amore. L'amore non ha bisogno di esprimersi verbalmente, perché già esprimersi verbalmente, chiedere a una persona mi ami, già si dica a chiedere una conferma, e se qualcosa va confermato è qualcosa di cui non c'è certezza. La certezza è solo quando l'innamoramento sconvolge i sensi, l'innamoramento ottenebra la mente, l'innamoramento fa fare cose folli, l'innamoramento è come un rischio da fuggire, è qualcosa a cui dobbiamo liberarci, qualcosa che dobbiamo uccidere, ma è il contrario di una festa. Cristina. Buongiorno. Posso? Io esprimo il mio punto di vista, ma io non chiedo di meglio che qualcuno mi contraddica, Cristina. Ma io più che contraddire, dato che sono al secondo matrimonio sia io che mio marito. Beh, questo che c'entra con l'amore? Questa è una... C'entra per il fatto che abbiamo fatto degli errori precedentemente che fortunatamente non stiamo ripetendo, non è detto che non ne faremo degli altri. Se vi siete sposati, già l'innamoramento è una cosa, fa parte del passato, che vuol dire? Ma no, più che altro che, diciamo, per noi l'importante oggigiorno è ogni giorno dichiararsi il proprio amore dandosi appuntamento al giorno successivo, per cui San Valentino per noi non è tutto l'anno, è tutto l'anno, e non, domani lui va a lavorare, io pure, quindi non è che facciamo granché. Però devo anche ringraziare la crisi che c'è oggi, perché la carenza di denaro fa sì che anche molti grilli che magari potrebbero venirmi per la testa passano non in secondo ma in ultimo piano. Mi dica un grillo costoso che di solito le viene per la testa. A me piacerebbe tanto fare un viaggio, non riesco manco a spostarmi di 50 km. Ma per motivi economici o perché? Economici, perché tra il lavoro e tutto, la benzina che aumenta, la casa... che però viaggiare è una delle cose che costa meno oggi, ma onestamente. Non lo so, mica tanto, che tra gli aerei, la macchina, ma... i treni costano quasi quanto gli aerei. Ma infatti per questo bisogna prendere gli aerei, costano poco, se uno si organizza in tempo ci sono voli che per 50 euro la portano in mezzo mondo. Cioè. Io faccio parte di quella categoria di statali dichiarati fannulloni che arriva a fine mese sempre col conto in rosso e ringrazio il mio cane figlio, allora perché sì. Se no non ce la farei, però insomma non sono infelice, per cui non mi posso lamentare, va bene così, per oggi è così. Però non mi intristisca con questo, io penso no, che... ma dico, ecco, c'è chi sta peggio, io sto più che bene, io e mio marito ci vogliamo bene, quindi va tutto bene, però San Valentino non lo sentiamo, per me è una festa. Oggigiorno ci sono talmente tante cose negative al mondo, soprattutto sì, vabbè, però se no uno si deve scarnificare le gonne dalla mattina alla sera se pensa solo alle cose negative. L'idea della festa è proprio per dire, per un giorno al diavolo tutte le cose negative, mi voglio divertire, voglio uscire dalla tristezza. Quello su cui obietto io un pochino, che senso ha fare la festa dell'innamoramento? Come vede, nessuno ha saputo definirmi esattamente cosa sia questo innamoramento, soprattutto restringerlo in una data, in un momento da celebrare. Rachel, buongiorno. Buongiorno, se come volevi che essere contraddetto, io vorrei contraddire, non essere d'accordo con qualcosa che hai detto prima. Allora, intanto io e mio marito siamo d'accordo che mai e poi mai ci regaleremo niente il giorno di San Valentino, quindi niente che coinvolga soldi. Detto questo, a me piace tantissimo sciare. Se non pianifico con 2 mesi di anticipo il weekend nel quale dovrò andare a sciare, non ci vado mai. E quindi se è una scusa San Valentino per trovare il giorno per fare qualcosa, mi va bene. Quel qualcosa si può fare, per come la vedo io, in modo, passami la parola, cafone, o si può fare in modo più evoluto. Se vai in un ristorante dove ci sono i cuoricini con le luci intermittenti, allora mi sembra una cafonata, con tutti i rispetti. Sì, però molte volte è anche divertente fare le cafonate. A me mi diverte andare in posti del genere per ridere, sorridere, immergermi nel kitsch. Anche questo ha un senso, diciamo, potrebbe essere una scelta. Per me è una scelta, infatti, che non condivido, però è una scelta, infatti. Poi se quello coinvolge invece una candela e mangiare piuttosto della solita pasta magari comprata nel supermercato, e una pasta fresca e con un testo che magari ho fatto io, piuttosto di comprarlo già sul vaso, allora mi sembra un modo più carino di farlo. E per quanto riguarda l'innamoramento, non ha bisogno di essere detto con parole. Io guardi, un bambino piccolo al quale sto educando, e quando mi chiede una cosa mi dice per cortesia e mi dice grazie. Il cortesia e il grazie in ogni momento mi sta dicendo, non so, che mi rispetta. Sì, il mio punto di vista, l'innamoramento è l'antitesi di ogni cortesia, di ogni grazie, di ogni richiesta per favore. Chi ama non chiede per favore, chi ama non chiede per cortesia, chi ama non deve dire grazie soprattutto. Ma questo è il mio punto di vista. Cinzia. Cinzia, c'è ancora? Sì, ci sono, eccolo. Buongiorno. Sì, no, abbiamo segato Rachel perché aveva già parlato. Parla. No, io sono sulla linea di Rachel, si prende quel che c'è. Del racket, adesso, povera Rachel. Rachel, no. Rachel, scusi. No, si prende quel che c'è. Sì, io però sono questa mamma di 2 bambini. La celebrazione della micragna è una delle cose più tristi e più ammoscianti che possano. Non lo dite almeno, sì. Che fate la pizzettina con la candelina in casa per il marito, è una cosa che sa di pantofola. Ma no, a un chilometro. Si va fuori, si mangia qualcosa di buono, di diverso. Sì, c'è la scusa per uscire, sennò tra il lavoro. Ma perché il giorno bambini che lo fanno tutti? Che siete incolonnati col bigliettino in mano e la lista d'attesa e tutte le donne vestite lì con il copricapezzoli e gli uomini con le mutande con la bocca disegnata in fila? Perché è il giorno di San Valentino, fatelo oggi, domani, fra un mese, fra una settimana. E che se no non si fa proprio, no? Allora non siete innamorati. E ma lo che volete? Avete bisogno della celebrazione, qualcuno è vi vero. Dica oggi fatelo, vuol dire che non vi va. Cambiate partner, cambiate vita o rassegnatevi alla tristezza di non avere mai più passione. O forse semplicemente siamo troppo presi dalla quotidianità e da tutto quello che c'è da fare. Guardi, no? quando azzanna la passione, non esiste quotidiano, la gente si arrampica sulle pareti, rinnega i figli, rinnega le mogli. Ma lei ha ragione, ma quando uno si assieme a un'altra persona da 20 anni, cioè, ma allora non vi lamentate, non siate ipocriti, non andate a fare l'altarino di ciò che non esiste. È come, lo dico, è come il carnevale di Viareggio, adesso non si arrabbi, esatto, i Viareggini, così, è come il calen di maggio a Assisi, come il calen di maggio a Assisi, si vestono tutti da personaggi di un'epoca che non c'è più, ricostruiscono un'epoca fittizia, è la ricostruzione fittizia dell'epoca dell'amore che non esiste più. È così, d'accordo? Sì. Ma no, diciamo che è l'unico momento in cui è uno dei momenti in cui uno si prende del tempo per l'amore. Perché di solito. Ma allora l'amore non c'è, perché l'amore dovrebbe prendere il vostro tempo. Non è che voi dite oggi è il tempo dell'amore. È l'amore che prende il vostro tempo, dice oggi non c'è tempo per altro che per l'amore. Ma la mia è una detestabile. Magari, magari vede che rimpiange. Magari, allora, anche lei domani vada al funerale del suo amore a San Valentino, le faccio i migliori auguri. Ci sentiamo domani.